mai che il silenzio alle tue luci porti, o illustre vitellia, né mi do caso. Armuta per te, crudo ministro, la tagliente mi pente. Il fuoco il tosco già ti s'appresta, e viene sanguinaria e tiranna a te la morte. Morte bramata in ogni età d'accada, ma non è da romana, e da chi è figlia del console di Tito. Di non degne memorie lasciar oscuro il nome e la sua fama. Ma da Lucio non è né da Latino, nel gran Settimio prode seguirlo fe contrario a propri fati. E sol vostro il delitto a chi adorati? Il reo pensi alla propria, non alla colpa altrui. Dunque, ciò che ti sforza di venir latina, di ancor nieghi. Non parlerò giammai. Perfida, a tuo rispetto lo dirai. Questa ferrea, pesante, rugginosa catena, all'albere di ribellata fede, è principio di pena. Senti, è ancor leggera per la tua colpa. Lucio, prendila, e se più tace, alle sue piante fa che sia posta. Per le vie di Roma strascinata con essa, dalla plebe indiscreta ed oltraggiosa, nuda il Virginio sen, nuda la fronte, sì, la figlia Vitellia abbia fra poco i vilipendi e l'onte.